stata fatta un'inchiesta approfondita e ha portato a un nulla di fatto. È lo stile dei dirigenti che viene fuori. No, mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento, come ci sono stati milioni in ogni sport. Primi e secondi in qualifica qui, primi e secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime tre o quattro gare sono state molto dominanti per loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida, autore di questo programma, e continuano i face to face di tutti i convocati. Oggi parliamo di sport, ma parliamo anche di UFO, oggetti non identificati. Buon pomeriggio a Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Buongiorno a tutti. Perché Flavio Vanetti ha scritto con Ottavio Davidi e Sara Caffulli questo Turisti per UFO, 51 luoghi alieni da visitare nel mondo. Conoscete Mistero Bufo, il blog che è ormai un cult? Non so se da lì è partito il libro, com'è successo. Parlami di UFO, Flavio Vanetti, prima di parlarmi di atleti UFO. Beh, sì, un po' la genesi è legata appunto all'attività nel blog, a Mistero Bufo. È una sorta di evoluzione naturale, una riflessione che ho fatto un giorno. Mi sono domandato: ma esisterà mai una guida per andare a visitare questi posti che sono stati teatro di fenomeni strani, di presunte abduction, di incontri ravvicinati dal primo, secondo, terzo tipo e via discorrendo? Ho fatto una breve ricerca e ho scoperto che non esisteva una cosa del genere, una peraltro smisurata letteratura ufologica. Ci sono dizionari enciclopedici, libri di ogni taglia, di ogni argomento, ma mancava questa cosa qua. Allora ho pensato di lavorare appunto a questa idea, visto che seguendo appunto il blog devo raccontare appunto di luoghi, posti e vicende di persone, e sono partito con l'idea di fare un'indicazione di 50 località che meritano nel mondo di essere visitate per questioni ufologiche. Poi il numero è stato ritoccato a 51, ovviamente in omaggio all'area 51. E diciamo che, ripeto, senza esagerare, senza allargarsi troppo, l'idea è quella di fare una specie di Lonely Planet dell'ufologia, e per ogni località noi forniamo anche una breve indicazione di come arrivare, di dove dormire, dove mangiare e che altro vedere al di là appunto di queste questioni ufologiche. Ovviamente è un pretesto in realtà per raccontare 51 storie legate agli alieni e agli extraterrestri. Senti, da Meneghina agli UFO sei passato nella tua smisurata attività letteraria. Ma e questa in realtà era la famosa idea che avevo proposto a Rizzoli. Ero andato dal capo delle varie a parlare appunto di questa guida. Poi sono uscito invece con la proposta di fare il libro con la biografia di Dino Meneghin, che abbiamo subito ribattezzato l'extraterrestre del basket, che in effetti è la verità. Ma la tua esperienza con gli UFO, al di là di Meneghin, che certamente è un alieno? Dunque, no, la cosa curiosa è che io non ho mai avvistato nulla, però forse no, mai, ma nemmeno di striscio. Però devo dire che la cosa non mi preoccupa, non sono, come dire, ansioso così di fare questo incontro, anche perché ho il sospetto che magari il giorno in cui dovesse succedere, chissà, ma non è una cosa piacevole. Comunque è successo in sogno invece, ma anni fa, in tempi non sospetti. Io mi sono sognato che stavo arrivando verso casa. Io abito in un paese vicino all'aeroporto di Venegono, cioè abito a Venegono Superiore. L'aeroporto divide, cioè unisce i due paesi, Venegono Superiore e Venegono Inferiore. Io stavo tornando proprio dall'aeroclub, dove tra l'altro svolazzo, cioè il pilota della domenica, e stavo tornando verso casa sulla strada parallela all'aeroporto. Era una tarda mattinata, c'era anche mia moglie, e all'improvviso abbiamo visto proprio sul cielo, sopra il cielo di Varese, questa roba lenticolare argentata che si è diretta verso di noi. E lì ho cominciato a avere la tremarella, proprio il senso di sapere che cosa stava per succedere, cioè che venivamo prelevati. E questo però è un sogno. È un sogno, sì. Poi il sogno fortunatamente è finito nel momento in cui siamo stati prelevati dagli scolati. Al momento è l'unica esperienza di UFO che ho. Senti, UFO dello sport, chi c'è in questo momento? Allora, beh, io sono sempre dell'idea che Bernie Eccleston sia un alieno, perché se più lo guardo mi sembra che in quel caschetto, vabbè, particolare di capelli bianchi, poi se uno guarda bene i tratti potrebbero essere quelli di un grigio, come statura ci siamo, sì. Perché poi comunque è piccolino, anche i grigi sono piccolini. Adesso poi Montesiano gli ha dato dell'anziano. Esatto, gli ha dato dell'anziano, che non l'ha presa molto bene, comunque occhio e croce. Io direi che lui è un alieno anche per la straordinaria capacità di, così, di essere sempre presente, di restare a galla. Adesso vediamo cosa succede con l'ultima vicenda, che mi sembra un po' più seria di tante altre, questo processo possibile a cui potrebbe andare incontro in Germania, e chissà, forse quello potrebbe essere davvero il suo capolino. Però da buon alieno che sopravvive a varie vicissitudini è ancora a galla, ecco. Sì, certo, il mondiale di Formula 1 non è più quello che ci ricordiamo, cioè è stato plasmato e trasformato da Bernie Eccleston in qualcosa di profondamente diverso, con piste senza storia, con luoghi senza storia, è stato un po' depauperato dalle sue leggende. Sì, sono assolutamente d'accordo, tra l'altro proprio, non mi ricordo più, quando sono stato a Austin, che era proprio il nuovo circuito, invece questo è in controtendenza rispetto, sì, ad altri nuovi inseriti. Austin è stato un successone, almeno speriamo che duri, perché c'è bisogno di avere un'America presente in Formula 1 che porta, che porta spettatori, soldi, interesse e anche ritorni sulla stampa. Però questo lo si potrà valutare solo nel tempo, è la prima edizione, è chiaro che funziona sempre per ovvi motivi. Austin è un po' l'eccezione rispetto a quello che è stato il resto, è quello che giustamente tu sottolineavi, questa mania di andare a cercare a tutti i costi il business in mercati, d'accordo, sì, da esplorare, ma secondo me anche da verificare in quello che possono essere, quello che possono dare i ritorni. Ecco, questo sicuramente è una pecca che ci ha portato a vedere degli obrobri tipo, non so, Corea veramente, sì, non c'è nessuno. Io già la seconda volta che purtroppo devo andare lì, tanto la seconda volta mi è sembrato anche meno peggio della prima, però non c'entra assolutamente niente, anche perché è in controtendenza rispetto a quella che è sempre stata la sua idea, quella di portare la Formula 1 in grandi città. Allora perché non fare questa pista a Seul, ma perché andare giù nel profondo del paese? Sì, c'è la Hyundai, ci sono degli interessi commerciali, però caspita, non viene veramente nessuno, sì. E questa è una pecca di Bernie. Tra l'altro però devo dire che lui in questo è anche coerente. Lui è riuscito anche a eliminare se stesso, nel senso che la Turchia, che peraltro ritorna quest'anno in sostituzione del New Jersey, poi vedremo se sarà un ritorno definitivo o solo temporaneo per turare questo buco che si è creato. Cioè, la Turchia è di fatto un suo circuito, sì, e lui si è auto-escluso dal mondiale perché ha capito che lì non funzionava più. Per cui almeno in questo ha una sua coerenza, una sua logica. Un UFO, secondo me, è quello che pilota la Ferrari. Il miglior pilota che c'è al mondo si chiama Fernando Alonso e non riesce più a vincere un mondiale. Vettel può essere un ufetto, può essere un alienino, ecco. però Alonso, io sono del parere, ma ne abbiamo anche parlato più volte, che quest'anno abbia corso il miglior mondiale della sua carriera, perché con una macchina non competitiva all'inizio è riuscito a giocare in difesa, è riuscito a presentarsi competitivo all'estate. Poi è successo qualcosa che lo ha privato di un titolo che avrebbe in fondo meritato, senza nulla togliere all'alienino. Ma io direi questo, e allora è indiscutibile che Fernando abbia fatto quest'anno probabilmente la sua miglior stagione proprio in funzione del prodotto che aveva in, esatto, partenza. È indiscutibile che comunque ci sia stato anche un lavoro da parte della Ferrari per aggiustare questa macchina, che non era partita sicuramente sotto le migliori stelle, sotto i migliori auspici. Fernando in questo si è esaltato e ha tirato fuori secondo me il meglio del suo carattere e della sua capacità di lottare. Mi è piaciuto di meno nella seconda parte, quando si è reso conto che probabilmente la sfida a Vettel era persa, però ovviamente lui non l'ha mai ammesso, non l'ha mai reso palpabile questo feeling che lui aveva, e in quel momento lì però ha cominciato a giocare un po' contro la squadra, questo comunque a fare delle critiche che io posso anche capire sul piano umano, ti possa anche cascare la catena qualche volta, perché vedi, insomma, un senso di frustrazione. Però secondo me devi anche saper gestire bene queste situazioni di, ripeto, di frustrazione e di delusione. Poi è ovvio che la Ferrari ha davvero il compito morale adesso di mettergli a disposizione, esatto, una macchina come Dio comanda. E di questo parleremo subito dopo il traffico. Ci fermiamo un attimo, breve pausa, poi torniamo con Flavio Vanetti. Tutti convocati. Tutti convocati face to face, come d'abitudine in questi primi giorni dell'anno. Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, qui con noi. Stavamo parlando di Alonso, stavamo parlando di una Ferrari che non riesce più ad essere competitiva. Allora, detto in soldoni, dove sbagliano? Ma è chiaro che qua non vorrei entrare in un campo dove forse si può dire tutto e il contrario di tutto, e poi soprattutto non è un campo nel quale noi giornalisti forse dobbiamo entrare più di tanto, anche perché bisogna conoscere veramente dall'interno certe dinamiche, certe situazioni ci sono nel team. L'impressione è che ci sia stato nel tempo un indebolimento della struttura rispetto ai giorni di Tot, di Schumacher, dove però c'era anche una Ferrari con un budget ben diverso da quello attuale. Questo va riconosciuto al buon Stefano Domenicali, che spesso passa per essere quello che, come si dice a Milano, non è capace o non è buono, no? Invece secondo me Stefano ha delle qualità e semplicemente si trova a gestire una situazione molto differente, molto, molto più complicata rispetto al passato. Basti solo pensare che la Ferrari dei giorni Schumacher poteva provare come quando voleva sulla pista, certo, di Fiorano. Adesso la limitazione del contingentamento di test è stato sicuramente un provvedimento che è andato contro, certo, alla Ferrari e ha riequilibrato certe cose, quindi già è difficile lottare in questo scenario. Poi probabilmente sono stati commessi degli errori, delle valutazioni su delle persone, su delle situazioni, forse si è fatta anche una scelta magari all'insegna del tutto italiano, che forse non era il caso di fare, ma non perché i tecnici nostri non siano capaci, perché probabilmente la chimica giusta è quella magari di miscelare varie esperienze. Io ho visto alla Red Bull hanno veramente una struttura, come dire, internazionale, forse più melting pot veramente notevole. Detto questo, credo che, ma questo sia un po' la caratteristica di tutta Formula 1, manca forse una forza creativa come quella di Adrian Newey, sì, e però stiamo parlando anche di un pezzo unico, esatto, di quelli ce n'è uno solo, e la Ferrari classe. Obiettivamente già almeno un paio di occasioni ha tentato di convincerlo a venire a Maranello, ma lui ha preferito non venire. Vero è anche un'altra cosa, forse ci si dimentica, che un Newey dell'epoca, parliamo di John Barnard negli anni 90, certo, la Ferrari riuscì già a prenderlo. Però non fu un'esperienza felice, anche perché bisogna capire appunto lo spirito con il quale poi uno viene a lavorare per la Ferrari. Se viene con l'idea, con la puzza sotto il naso, sono inglese, voi siete quelli con l'anello al naso, la sveglia al collo, e quindi vi devo insegnare tutto io, ecco, allora è meglio che rimanga. Sì. Adrian non è un personaggio facile, tra l'altro, una persona piuttosto selettiva, una persona che si circonda di persone e di collaboratori che devono rispondere assolutamente a lui in maniera cieca e totale. Ecco, forse non è semplice imbastire. Un integralista. Come sì, lo era Barnard, ricordavi prima, che volle il suo laboratorio in Inghilterra, esatto, eccetera, e fu un bagno di sangue, dal punto di vista economico e dei risultati. Infatti. Senti, ma una curiosità, ma perché alla Ferrari hanno deciso di portare Massa alla pensione? Guardate, io sono convinto che non sia stata affatto una scelta sbagliata quella di confermare Felipe, per un motivo molto semplice. Si è creato con Fernando un legame sicuramente molto forte dopo magari qualche screzzo iniziale, cioè che Alonso gli ha subito spiegato come funzionava, come era il giro del fumo, l'ha sorpassato nella pit lane in Cina, poi c'è stata la famosa vicenda di Hockenheim, non gli ha dato praticamente modo di respirare, anche poi Felipe era reduce ancora dai post di quel brutto incidente che ha avuto. Però io credo che in questo momento la centralità di Alonso come figura nel team, come pilota e tutto, è fondamentale, e secondo me è fondamentale che abbia a fianco anche una persona da quale lui ormai si fida e con la quale ha instaurato un buon rapporto umano. Certo, sicuramente c'è in giro probabilmente qualcuno che in questo momento può dare sul piano tecnico delle garanzie migliori di Felipe, pensando anche in chiave mondiale costruttori. Però c'è anche da notare che dal momento in cui ha avuto la certezza della conferma, Felipe si è messo ad andare di nuovo, anzi più di una volta è stato anche più veloce di Fernando. Quindi forse era magari una situazione psicologica che lui ha patito più di altri, e comunque credo non sia stato sbagliato cambiare, anche per stare alla finestra per vedere se davvero un giorno arriverà mai questo Vettel. Vettel, Luffetto, Luffino, l'alienino. L'alienino, ma 25 anni, 3 titoli, sbriciola record in continuazione. Si può, hai un'idea in valore assoluto di quanto possa valere questo pilota? Secondo me lui è molto bravo in gara quando è nelle situazioni in cui si trova in testa, e questo è ovviamente, in questo è agevolato dalla macchina che, sì, che ha appunto che deve guidare. È bravo in queste situazioni di fuga a tenere un passo, un ritmo indiavolato, più di una volta lo devono anche richiamare e spiegargli che non è il caso magari di insistere così tanto, perché c'è il rischio magari di danneggiare la macchina. È meno bravo secondo me nelle situazioni di lotta, di bagarre. In questo chiaramente preferiscono ancora un Alonso o un Hamilton. Però sicuramente Sebastian ha tanto per essere, insomma, penso anche che poi con l'esperienza magari aggiungerà quelle cose che adesso, certo, magari sono un po' lacunose. È chiaro che ha avuto la fortuna di capitare in un team che è arrivato dopo le sofferte macchine iniziali, perché non dimentichiamoci che le prime vetture di monoposto di Adrian Newey non sono state poi perfette. Diciamo forse dalla RB3 si comincia a vedere qualcosa di veramente interessante alla Newey, e lui è capitato proprio nel team nel momento della grande maturazione della squadra e nel momento in cui Newey è riuscito a mettere a posto le tesserine nel mosaico. Sì, di quest'anno finalmente salutiamo il più grande marziano di tutti, che è diventato terribilmente umano. E così, io sono contrario a questi grandi ritorni, anche perché insomma, rischi di tuo, rischi di macchiare l'immagine, l'ha detto anche Eccleston se non sbaglio, certo. Il ritorno di Schumacher è stato in fondo un errore, perché quelli che l'hanno visto adesso hanno visto un pilota normale, lui un pilota normale non è mai stato. È vero, questo ridimensionamento però ce lo rende un po' più simpatico, forse ha anche fatto capire delle cose a Michael stesso, che mi ha molto impressionato quest'estate. Abbiamo avuto questa chiacchierata a Brackley, una delle rarissime occasioni in cui lui dà delle one-to-one vere, nel senso eravamo io e lui e abbiamo avuto 20 minuti veri per parlare. E in questa intervista è venuto fuori uno Schumacher che non conoscevo, ma e lui lo ha ammesso che questa vicenda l'ha un po' cambiato. C'è da dire che al 99,99% lui non si immaginava che sarebbe finita così. Cioè, tornando indietro al 2010, quando ci fu l'annuncio del ritorno, io penso che lui immaginasse di tornare per vincere magari non tutto, ma insomma qualcosa. E questa è un'esperienza che è andata peggio del previsto, anche per gli incredibili ritardi della Mercedes nel dargli una macchina competitiva, perché poi anche questa vicenda dimostra un'ulteriore teoria della Formula 1, che tu puoi essere anche un alieno appunto, però se non c'è il disco volante giusto ti metti in coda e stai sulla tangenziale come gli umani e finisci nell'area 51 dentro una cassa. Esatto. No, ma hai visto qualche possibile o potenziale nuovo alieno tra i piloti emergenti? Ma, io direi che comunque a parte Fernando, a parte Vettel, a me piace molto Hamilton. Poi i giovani, si parla sempre benissimo di questo Pic, però adesso ha guidato la Marussia, adesso passa alla Caterham, vediamo che chance, se veramente poi la Caterham fa un salto di qualità. Si parlava molto bene di Ricciardo, però sulla Toro Rosso non è che abbia poi incantato, secondo me ha fatto molto meno bene di Vettel, tanto per dire, non solo per la vittoria che Vettel ha ottenuto dalla Toro Rosso e lui no. Direi che in questo momento non si intravede, almeno forse mi sbaglio, però non vedi qualcosa, non vedo di grande talento, qualcosa di veramente spaziale, ecco, però poi può essere vero che magari un pilota messo su una su una buona macchina, magari esplode e si dimostra di talento, forse era la macchina che lo fermava. Sì. Però ad esempio vediamo il caso di Sergio Perez. Sergio Perez ha fatto sicuramente delle ottime gare con la Sauber, adesso passa alla McLaren e sono curioso di vedere se si dimostrerà davvero da McLaren. Dal momento in cui ha firmato con la McLaren, con la Sauber non ha più beccato palla, e ha fatto anzi un paio di cavolate non da poco, mi ricordo quella di Suzuka con Hamilton, e questo vuol dire che forse anche lui non è poi così pronto come sembrava, ecco, quindi per ora la vedo così. Non c'è dubbio sul fatto invece che il back of the ears è stato quello di Raikkonen, che è tornato ed è tornato istantaneamente su una macchina che non poteva vincere il mondiale, però anche lui stagione da quanto gli diamo in pagella? Kimi io gli do un voto, diciamo anche un 9, ma come dire, ritoccato in meglio, anche perché lui è un personaggio unico. Quando ha raccontato lì a San Paolo, come mai, non so se avete notato che lui c'è stato un momento che è uscito praticamente di pista ed è andato ha dovuto rientrare passando per i prati, sì. E tu dici, ma questo qua era ubriaco? No, lui ha raccontato che aveva fatto lo stesso errore qualche anno prima e aveva preso questa strada, era una parte della pista del circuito, quello Interlagos escluso dalla corsa, sì. una strada nei raccordi, cioè, però la volta scorsa c'era il cancello aperto e se l'ha trovato chiuso ed è ritornato a quel punto lì a memoria della sua fresca esperienza del rallista, ha fermato anche la girata ed è andato per i prati ed è rientrato in pista, è andato a fare una passeggiata nel bosco, grandissimo. Poi le battute fa lui, questo suo vivere veramente su Marte, lui è davvero un alieno secondo me. Poi tra l'altro anche un po' il fenotipo dei cosiddetti pleiadiani, questi nordici, questi presunti alieni che derivano dalle razze nordiche, e lui con questi occhi di ghiaccio, questi capelli biondi, il fatto che non dica praticamente, non parli mai, mi fa pensare che possa essere davvero. No, poi lo guardi e dici, questo è tutto tranne che simpatico, potrà essere pilota, ma è tutto tranne che simpatico. Ci sono degli aneddoti strepitosi su di lui, ad esempio la prima volta che dovette andare a un test a Ferrari, quindi diventava il debutto lo fece a Vallelunga, se eravamo presenti dato il giorno in cui guidò per la prima volta a Ferrari. Poi ci fu, se non erro, il test di Barcellona. E lui è andato a Barcellona, ma si era dimenticato di chiedere in quale hotel dovesse andare. Allora non aveva nessun contatto ancora con il personale della Ferrari. Cosa ha fatto? Ha chiamato un suo amico in McLaren che sapeva che era in contatto con uno della Ferrari e si è fatto dare il numero di telefono dell'hotel per sapere dove dovesse andare. Ecco, e questo spiega come Kimi. Ecco, lui vive veramente nel suo mondo e a volte si accorge che deve scendere. Non c'è dubbio, è un UFO. Forse un alieno, sì. Un alieno. Ci fermiamo un attimo, subito dopo torniamo e parleremo anche di altri sport, parleremo di sci, perché anche lì qualche alieno, o meglio qualche aliena, io la vedo. Parleremo di basket, insomma state con noi, con Flavio Vanetti. Tutti convocati. Il convocato oggi è Flavio Vanetti. Senti, prima di chiudere la parentesi dei motori, so che non è proprio il tuo campo di competenza, però Valentino Rossi che torna alla Yamaha, Max Biaggi che decide di ritirarsi, sarà una stagione strana e importante. Strana perché non c'è più Biaggi dopo tanti anni, importante per Valentino Rossi perché rischia in altri termini e con altre modalità di fare un po' l'errore di Schumacher. Adesso si gioca la faccia. Si gioca la faccia e tra l'altro se la gioca a un'età sicuramente non più fresca, come appunto quella di Schumacher quando è tornato. Chiaro che le motivazioni sono diverse rispetto a quelle di Schumacher. Schumacher ha avuto una cesura di 3 anni, era un ritorno che aveva tanti perché, e tra i vari perché c'era ovviamente anche l'aspetto finanziario non trascurabile. Valentino credo che torni fondamentalmente per una sorta di ego che deve essere solleticato e rimassaggiato, magari per dimostrare quelle da Ducati che sbagliavano loro a dare una moto che non si adattava a lui. Certo che adesso si trova veramente un cast di avversari, cominciare appunto da Lorenzo, che non è più il ragazzino che magari puoi mettere sotto, quindi è una bella sfida e sicuramente molto molto difficile. Senti, invece, parlando, andando sulle piste di sci, altro tuo argomento principe, mi fai un ritratto di quell'aliena di Lindsay Vonn? Quella meravigliosa aliena bionda di Lindsay Vonn. Lindsay Vonn è una sicuramente una grande campionessa, la classica ragazza americana che vuole scalare la gloria e i risultati, ha capito anche cosa serve per essere personaggio ed è in questo momento sicuramente la numero uno nella Coppa del Mondo femminile, ma da un rapido studio che ho fatto sugli stipendi, sui possibili ingaggi, mm-hmm. probabilmente anche la sciatrice in assoluto che guadagna più di tutti, più dei maschi, perché in questo momento forte maschile manca il Tomba, manca l'Herman Mayer, manca il Bode Miller, mm-hmm. che possono essere comunque delle calamite di soldi. E la Vonn, poi il fatto di essere gnocca aiuta, esatto, direi anche sì. Perché insomma anche se adesso c'è la concorrenza della Mazze che sta crescendo sia come bravura sia anche su un altro fronte, ecco. E poi ce n'è un'altra, sì, beh, su questa Anna Fenninger che però forse un po' meno brava di loro due, diciamo che oggi come oggi la sfida è proprio tra Tina, tra l'italianissima Tina per quanto slovena, però lei ha il fidanzato preparatore fisioterapista che è italiano, ha tutto uno staff italiano e la Vonn che comunque vive nel suo pianeta, nel suo mondo con le sue dinamiche e anche qualche punto interrogativo, perché insomma a volte lei sorprende per questa capacità di rosicchiare i secondi, anche se ultimamente è un po' meno come dire, un po' meno forte rispetto ad altre situazioni. Ad esempio lei oggi come oggi domina e fa la differenza nelle condizioni di scivolamento puro, con qualche curva un po' più stretta, chissà perché, forse un periodo di appannamento sotto questo aspetto è un po' meno forte rispetto agli anni scorsi. Però diciamo che Super G è in discesa, è ancora quella da battere, anche se la Mazze ormai ha dimostrato di saperlo fare, perlomeno in Super G. In gigante no, in gigante davanti l'altra, e lei comunque è cresciuta in gigante, un tempo era più slalomista, vinceva anche slalom, adesso mi sembra che si sia orientata a tenere appunto discipline veloci, la combinata e appunto il gigante. È un personaggio, come dire, particolare, ci tiene molto la sua immagine, non è assolutamente molto amata nel mondo dello sci, aveva questo bel rapporto con la Öffel Risch, prima solo Risch, poi sposata appunto Öffel, hanno avuto questo battibecco dopo che la Öffel Risch le ha soffiato la Coppa del Mondo, c'era stato un problema sul fatto che lei aveva vinto grazie all'annullamento di una gara, insomma c'era stato un po' di screzi e adesso sembra la cosa si sia ricomposta, però non sono più amiche come un tempo. Ovviamente lei è vista come la numero uno, quella da battere, come la regina, un po' cattiva, un po' stronza, detto come l'ha detto, e quindi chiaramente... Però poi arriva in fondo, si toglie il casco, è sempre un gran bel vedere. È sempre un gran bel vedere, sì. Anche se secondo me è la mia preferita, la Mancuso, comunque, se devo essere sincero. Sì, assolutamente. Hai questo debole per la Mancuso. Sì. Secondo me Giulia è molto più vera, molto più spontanea rispetto a appunto la Fon, che comunque mi sembra un po' costruita. E poi ripeto, c'è questo aspetto che a me finisce poco di convincere, questo seguire questi cicli di allenamento molto molto duri, molto molto come dire mirati, anche seguiti poi vabbè in questo centro di Tal Gauda Red Bull, dove il direttore fino a parola del contrario è tale Bernd Pansol, che comunque fino a parola del contrario è un medico condannato per doping nella DDR. Ecco, io volevo farti una domanda maliziosa, senza intenzione di buttare nessun sasso, senza nessuna e nessun sospetto. L'unica cosa che noto è che al di là delle discipline del fondo, di quelle di fatica, dove intanto ne pizzicano qualcuno e dove casi ce ne sono, nello sci il doping è praticamente assente, cioè non ci sono mai stati casi clamorosi. Poi c'era stato quel folle di Bode Miller che ogni tanto usciva con l'idea del doping libero, eccetera. Però non ci sono mai stati casi eclatanti. Ma non ci sono appunto le pistole fumanti, non ci sono le prove provate, i sospetti sono stati tanti, parecchi sono tuttora tanti, parecchi. Se ti posso dire che negli anni dei due grandi norvegesi, Aamodt e Schius, c'era questa curiosa alternanza di annate positive e di annate che sembravano proprio fatte di scarico. La combinazione delle annate positive coincidevano con i grandi avvenimenti mondiali o olimpiadi. Idem se tu guardi anche un, ripeto, sto facendo dei nomi ma senza dire che sono assolutamente, però un Kostelic che arriva a vincere la Coppa del Mondo di rimonta dopo un inizio balbettante e con una progressione da gennaio alla fine della stagione impressionante, dopo guarda caso un periodo di relativa tregua di qualche una settimana o 10 giorni di pausa, ecco, sono tutte, restano delle cose che tu valuti, vedi e poi ti domandi ma cosa è successo, come mai prima a novembre non andava, mi ricordo l'anno scorso lui non, aveva proprio delle difficoltà anche proprio nelle gare americane, poi all'improvviso da gennaio ha cominciato a vincere, idem anche nell'annata del mondiale, arriva proprio guarda caso puntuale al mondiale e diventa un Gesù bambino come la sorella, stessa cosa. Poi forse è vero che si allenano tantissimo per forma mentis, per cultura loro, sono gente spartana, ecco, però qualche dubbio ti rimane, come anche su altri. Ma tu metti la mano sul fuoco sulla serietà dei controlli, perché è chiaro che... No, si potrebbe fare molto di più, però adesso diciamo che con la VADA che gira, insomma, devono stare un po' tutti attenti, però non so, anche di cose strane. Per dire anche malesse, io penso ad esempio a Carlo Janka, svizzero, che anche lui, ripeto, tra il 2009 e il 2010-2011 sembrava imbattibile, poi ha avuto questi problemi, hanno detto problemi di mononucleosi, delle malattie strane che l'ha debilitato. Adesso Janka stenta ad arrivare nei primi 15 in gigante, che invece prima era la sua specialità principe, vinceva in libera, vinceva in Super G. I controlli ci sono, ma potrebbero essere molto più pressanti, più, come ad esempio nel fondo, dove magari vanno proprio anche a vedere con più attenzione discorso sangue, incroci, eccetera eccetera. No, nello sci storicamente c'è stata una certa, come dire, rinuncia ad andare così in fondo, e forse io ho il sospetto che, ripeto, sospetto, nessuna certezza, nessuna accusa, che anche gli anni d'oro del Wunder Team siano stati tali grazie anche al fatto che le cose erano piuttosto tranquille. Mi ricordo benissimo la frase pronunciata, dunque aspetta, mi viene, adesso mi sfugge il nome, dall'allenatore svizzero a Sölden, che disse praticamente non ci vengano a dire che sono così forti grazie al muesli e agli spaghetti, ecco, questo era. No, poi tra l'altro questo è stato l'anno, a proposito di doping, non di sci, della distruzione, della crocifissione di Armstrong e delle tante croci nere sull'albo d'oro della corsa più importante del mondo. Armstrong truffatore, Armstrong farabutto, Armstrong che quando non era più così potente e non godeva più di tutte le connivenze che aveva, ha pagato giustamente, ma un po' per tante persone che poi alla fine non sono rimaste nell'ombra. È stata una vicenda, torno a ripeterlo, secondo me molto triste, non vorrei essere frainteso, però questa crocifissione pubblica di un corridore che barando e rubando è stato un mito, e questa distruzione della corsa più importante del mondo è stata qualcosa di, per me, di scioccante. È vero, sono assolutamente d'accordo, e comunque d'altra parte, insomma, il personaggio icona che sale in alto, chiaro che nel momento in cui cade il suo tonfo è più fragoroso e più udibile rispetto a quello degli altri. Certo è che probabilmente lui paga il conto anche per altri, anche magari nemmeno tanto pesci piccoli, ecco, voler vedere, quindi qualche bel pescione grosso da prendere ci sarebbe stato. Dunque ci fermiamo, ultima pausa, traffico, poi torniamo insieme e chiudiamo la chiacchierata con Flavio Vanetti. Tutti convocati. Allora, abbiamo aperto con gli UFO, continuiamo con gli UFO. Usain Bolt arriva da un altro pianeta. Ah beh sì, sicuramente no. Sì, non so da quale, non so se hai idea da quale pianeta. Non esistono al momento, meno se ben ricordo, non ci sono razze aliene, diciamo color caffè latte o nere o colorati. Boh, magari lui è, che so, magari toglie la pelle verde sotto. Chissà, dovrebbe vedere un attimino cosa succede. Poi alla fine è bel personaggio, perché dice anche le sue sciocchezze. Sì, no? sì e adesso gioco nel Manchester United, sì. Poi magari me lo compro. Vabbè, sicuramente il personaggio si presenta bene ed ha capito anche lui che cosa serve, quindi non essere solo un campione che vince, ma anche un campione che parla, che sa, sa colloquiare e ha capito l'importanza del villaggio globale. Le Olimpiadi come ti sono sembrate? Forse un po' deludenti, forse un po' non abbiamo visto così offuscarsi qualche stella o in qualche caso tramontare in gloria qualche stella come Michael Phelps, però non sono state delle Olimpiadi straordinarie dal punto di vista sportivo quelle di Londra. Ma sì, può essere anche ci sia magari un ciclo e poi insomma, però io credo che come ogni edizione i giochi sappiano offrire anche nuovi personaggi, dei ricambi e tutto. La valutazione, se vogliamo, dal punto di vista strettamente tecnico sportivo, vabbè, lì parlano i risultati. Io volevo dire qualcosa invece sul piano di quella che è stata l'Olimpiade, i giochi olimpici, sono stati i giochi olimpici sotto il profilo appunto dell'organizzazione, di quello che era il rapporto d'attesa, quello che è stato. Io credo che tutto sommato sia andato meglio del previsto e tra virgolette del temuto, cioè io mi aspettavo molto un'Olimpiade spartana che un po' era una testa di Co, era una testa degli inglesi. E devo dire che alla fine Londra ha recepito bene il messaggio, è stato comunque molto più accogliente, ci sono stati molti meno disagi di quelli che ci si aspettava, a cominciare dai trasporti. Tutto sommato hanno anche dimostrato che si può fare un'Olimpiade sostenibile, sì, a livello anche di strutture, con questa idea intelligente del riciclo degli, certo, impianti, di non creare più queste cattedrali nel deserto, certo, tipo lo splendido Needles Nest di Pechino, che però, sì, purtroppo... come è accaduto ovunque siano passati i giochi olimpici. Ma esatto, basta vedere anche lo scandalo dei nostri impianti torinesi delle montagne, che insomma, dovremmo vergognarci di aver buttato via tutti quei soldi senza, cioè prima contrabbandando dei progetti di sviluppo e di creare le cose lì, poi in realtà non facendo nulla, quindi, certo, sì, anche noi dobbiamo stare assolutamente zitti. L'idea quindi di Londra è secondo me un'idea futuribile, vincente, quella che l'impianto deve sopravvivere anche dopo, e se non può sopravvivere lì può sopravvivere da un'altra parte, sì. Il cubone del basket dentro il parco olimpico verrà appunto smontato, l'hanno già fatto e dato da altre parti, la pista del velodromo verrà rivisitata e anche adattata ai ciclisti della domenica, che vogliono scorazzare in questa zona che sarà trasformata in un parco. Tutto sommato non è andata male, ecco, mi aspettavo molti più problemi e molta più confusione. E a Rio cosa ti aspetti? Manca Rio, molto tempo, ma... A Rio innanzitutto avranno prima la verifica del mondiale di calcio. Questo, certo, sarà sicuramente un test molto importante. Il Brasile sicuramente ha una voglia di emergere superiore a quella di tante altre nazioni, ha della gente motivatissima, hanno anche capito che devono mettere un po' da parte il loro essere naif, essere un po' estemporanei, essere un po' più pragmatici e concreti. Certo, forse un paulista avrebbe dato magari maggiori garanzie rispetto a un carioca, sì, come mentalità. Però vediamo, di fatto poi l'organizzazione mutua anche molte persone dal resto del mondo, ci sono anche tanti italiani, la responsabile della sala stampa sarà ad esempio un'italiana che poi ha lavorato anche a Vancouver, ha lavorato, sì, anche a Torino, quindi diciamo che sarà questa tendenza magari al cazzeggio carioca, sì, sarà un po' corretto dal pragmatismo magari di altri popoli. C'è questa scommessa nuova di fare per la prima volta un'edizione dei giochi senza la costruzione di uno stadio olimpico, sì, usando il vecchio Maracanã adattato, e di fare altre da un'altra parte. Può essere una scelta anche questa giusta, logica, nel filone di dire non buttiamo via i soldi per cose che poi magari non servono. Certo che la scommessa è grossa, perché Rio resta comunque una città particolare, problematica, certo. E credo che la questione dei trasporti lì sarà cruciale più, certo, che da altre parti. Certo. Ti faccio una domanda difficile, Flavio. L'impresa dell'anno qual è stata secondo te? Cioè, quella, ai. Ma di quelle che hai visto, vissuto? Vabbè, senti, sport. Dai, faccio un po' il primo, il tifoso, il secondo l'italiano, il terzo quello che fa una piccola sponsorizzazione, uno sport che segue. Dico l'1-2-3 delle nostre fiorettiste a Londra. Sì, eh? Che è comunque una cosa che non accadeva dal 1988, fatto però dalle tedesche. Era stato fatto che è un'impresa pazzesca, però quasi quasi uno se l'aspetta, no? No, attenzione, solo, guarda, io li chiamo gli orecchianti quelli che, sì, dicono che si dà tutto per scontato. La scherma, soprattutto poi in un'edizione dei giochi, è uno sport terribile, perché sembra proprio i giochi qualcosa fatto per demolire dei valori costituiti. E invece parliamo di un altro tuo grande amore, il basket. Sì, esatto. Abbiamo comune, peraltro. Esatto. Alleluia, abbiamo una nazionale. Sì, direi di sì. Adesso se mi sente Pianigiani me ne tira da Istanbul tutte di più. Però io credo che, insomma, toccando ferro e senza, ripeto, anche qua illuderci troppo, che sia semplice, anzi... abbiamo beccato forse all'Europeo in Slovenia il girone peggiore, veramente un girone di ferro, e però potrebbe, se superiamo quella prima fase, di regalarci una fase, un cammino successivo più agevole. Ecco, dicevo, forse abbiamo trovato una quadratura nel gruppo, una squadra che sa veramente giocare come tale e che ha metabolizzato molto bene, ad esempio, uno dei tre Gallinari. Gli altri due non c'erano, e dovrebbero tornare. Però si deve vedere. Bravo, su questo bisogna riflettere, perché se è nata una nazionale metabolizzando Gallinari, le esperienze precedenti invece in cui portavamo le tre stelle non hanno funzionato, perché questo è obiettivo. Quindi attenzione, bisognerà metabolizzare anche Bargnani e Berinelli eventualmente. Sarà una scelta ovviamente di Simone, credo che a questa cosa lui pensi appunto nelle due versioni, la versione A con i tre tenori e la versione B in cui magari si resta solo col Gallo, o magari se ne aggiunge uno dei due, magari lo specialista Bellinelli o Bargnani effettivamente ci potrebbe essere utile sotto, anche poi perché comunque Mago è un giocatore, sta dimostrando anche di riuscire a segnare nell'NBA. Effettivamente è veramente il dilemma della prossima stagione. La chimica che è stata trovata può essere migliorata da due giocatori che sono sicuramente di valore, ma che potrebbero anche indurre degli scompensi. E sinceramente non ho una risposta in questo momento. Come ha fatto un campionato che oggi non vale molto a partorire finalmente una nazionale? Si dice non ci sono i giocatori, non ci sono i soldi, non ci sono le squadre, non ci sono i presidenti federali, non c'è più niente, è tutto un deserto. E nasce una nazionale tutto sommato giovane e che dopo anni da buone sensazioni. Ma vabbè, se tu senti Pianigiani senti innanzitutto che poi non è vero che ci sono i giovani, lui è sempre molto pessimista, vedete tutto poi in realtà forse non è proprio così. I giovani ci sono, ce ne sono anche tra l'altro che potrebbero entrare in questo gruppo, sì, per cui siamo abbastanza, non dico coperti, però un po' meno pessimisti sul futuro rispetto al passato. È diventata tale perché comunque lui è un buon allenatore, ha saputo col suo staff creare anche delle condizioni, appoggiato in questo dalla federazione, per lavorare in questo mese e mezzo che ha a disposizione, per cercare di produrre un po' quel metodo che lui ha usato in lungo e largo a Siena, e cercare di riprodurlo ovviamente nei tempi più stretti che impone, sì, la nazionale. E si è creato un bello spirito di squadra, una bella chimica umana e tecnica, e credo che alla fine questa sia la cosa più importante. Resta un campionato che non vale molto, diciamo che è un campionato sicuramente che si sta assestando, sicuramente ci sono delle perdite importanti di valore, cioè basta pensare a Scavolini che comunque, certo, ha avuto questo inizio veramente sofferto, tutto. Però io dico che bisogna anche un po', secondo me, adattarsi ai tempi che corrono. Prima ci lamentavamo che c'era una squadra dominante, Siena, che ammazzava tutti. Adesso c'è forse più equilibrio, perché io penso che la stessa Varese non possa sentirsi così sicura di dire fino in fondo. Diciamo che c'è, ad esempio, stata la prima parte la bella sorpresa di Roma, che in fondo era una squadra che nessuno si aspettava e non doveva neanche nascere, e dopo anni che magari cercavano i nomi, le situazioni particolari, facendo forse la cosa più improvvisa e meno pensata, ecco che sono riusciti ad azzeccare una chimica. Lasciando giusta. Stare Sassari, che Sassari però è già un progetto che sta andando avanti da un po' di tempo, ecco, quindi è una buona squadra. Io dico, non è poi così brutto, così infame, ecco. Ripeto, Varese per adesso ha espresso veramente un basket veramente molto bello di divertente. Sì, assolutamente. E ha poi lanciato, ad esempio, un giocatore come Pollonara, che era già stato che è uno che sta dimostrando personalità. Sì. Senti, siamo in chiusura, dato che ho ancora qualche giorno di vacanza, consigliami un luogo dove andare a vedere gli UFO. Beh, dove andarli a vedere, io ripeto, non avendoli visti, non te lo posso dire. Però tracce di UFO, dove vado a vederli? Beh, tracce di UFO, puoi andare ad esempio in Val Camonica a vederti tutti i graffiti rupestri, ci sono cose molto interessanti, oppure se vuoi corre magari il brivido anche Sì, di... Ecco, allora fatti una passeggiata sul Monte Musinè all'imbocco della Valsusa, dove oltre ad avvistamenti di UFO ci sono storie di demoni, di spiriti e quant'altro. È un posto magico, misterioso, veramente molto strano, molto particolare. Però proprio nei giorni scorsi un gruppo di ricercatori geografici di Busto Arsizio stava facendo dei rilievi appunto per la propria attività e ha fotografato un bel UFO che è apparso sul Monte Musinè, per cui a 150-160 km si può fare tranquillamente. Si può fare tranquillamente. Mi porto dietro turisti per UFO. Ovviamente, almeno hai delle indicazioni anche per come arrivare al Musinè o in Val Camonica. Benissimo, allora grazie a Flavio Vanetti per queste informazioni e queste indicazioni. Domani un altro appuntamento face to face, tutti convocati per queste vacanze di inizio 2013. Grazie a tutti.